Leggo con sospetto le dichiarazioni di artisti, siano essi poeti, narratori, pittori, musicisti, le dichiarazioni sulla propria opera. Non perché non ritenga oltremodo interessante qualsiasi rivelazione intorno al come hanno fatto a giungere a quel determinato risultato, quanto piuttosto perché scorgo troppo spesso in queste dichiarazioni i segni chiari del discorso propagandistico, nonché del rancore peraltro verso il mondo tutto per mancato apprezzamento dell'opera loro. Anche coloro che sembrano avercela con quel mercato in cui il prodotto artistico è costretto a stare sembrano animati dal fatto che in questo mercato non ricevano il giusto prezzo che meriterebbero. Oppositori più per condizionamento che per scelta, insomma. Il sospetto è destinato a crescere se poi l'artista in questione tocca, quando parla, tasti palesemente fasulli che non dovrebbe toccare. Perché non ho nient'altro sotto mano e perché attratto da un titolo che non promette nulla di buono, L'arte tornerà arte, leggo l'intervista ad un pittore. Inizia con il dire che Kant si era sbagliato e che gli studi sul funzionamento del cervello umano hanno ormai dimostrato che ogni conoscenza in nostro possesso è data a posteriori. Così, una volta confusa la teoria della priori con un innatismo perlomeno di stampo medievale, Kant, per questo pittore in cerca di gloria, diventa lo sciagurato padre dell'astrattismo. Lui, il pittore, pensa addirittura di essere stato il primo ad aver impiegato gli studi sul cervello per sostenere l'infondatezza di una visione dell'arte astratta. Sarebbe poi grazie a questa consapevolezza che lui è potuto tornare alla concezione di bello come perfetto, e se qualcuno gli chiedesse in cosa mai consiste questa perfezione, lui risponderebbe che in natura la perfezione è funzionalità e che il pittore ha il compito di dipingere le forme riconoscibili e soprattutto quelle oggettive. L'intrinseca fascistizzazione di questi argomenti è evidente. Misteriosi studi sul cervello sono chiamati a testimoniare che ci sarebbe una realtà oggettiva pronta da essere colta e che in virtù dei mezzi straordinari che gli sono toccati è capitato proprio a lui, a questo pittore, di doverla e di saperla cogliere. 100 e passa anni di tentativi più e meno felici di sbarazzarci della retorica ottocentesca dell'arte sarebbero da cancellare. Non a caso, come ogni nostalgico che si rispetti come un pendolare della storia, questo pittore parla di ritorni. Ritorna, l'arte tornerà arte. A volte ritornano. Inutile dire che dalle neuroscienze non segue alcuna confutazione del pensiero kantiano e volendo si ricava informazioni diametralmente opposte a quelle tirate in ballo dal pittore. Le stimolazioni sulla retina non sono uguali per tutti e non bastano per ottenere un percetto visivo. Nessuno poi può garantire che il prodotto successivo del cervello sia una copia esatta di che sia. Cose note da tempo, peraltro. Diciamo che al banchetto della realtà nessun ospite può mai permettersi di arrivare a mani vuote. Qualcosa di suo ci deve essere sempre. Come noto, il filosofo ungherese Gheorghi Lukács ha vissuto a Mosca tra il 1930 e il 1945. Gli è andata bene per il rotto della cuffia, perché nel 1941 fu messo sotto inchiesta a causa di alcune dichiarazioni di un agente segreto ungherese e dovette trascorrere un paio di mesi nel carcere della polizia politica sovietica, la tristemente nota Lubyanka. Gli interrogatori ai quali fu sottoposto il povero Lukács sono ora raccolti e pubblicati a Mosca in un libro che, non senza ottimismo, peraltro è stato intitolato Conversazioni alla Lubyanka. Bene, il 5 agosto del 1941 A Lukács fu chiesto: che errori ha commesso? Lui risponde sconfessando subito il suo libro del 1923, sconfessando cioè storia e coscienza di classe, perché sarebbe stato baccato da idee ultrasinistrorse di cui in epoca staliniana era bene emendarsi. Alla radice di queste idee, secondo Lukács, che rischia la pelle nel 1941, ci sarebbe stata la sopravvalutazione dei fattori soggettivi e la sottovalutazione dei fattori oggettivi. Avrebbe, insomma, sopravvalutato la società e sottovalutato la natura. Per quanto oggi potrà sembrare strano, era la risposta giusta. Era la risposta giusta per uscire dalla Lubianca. Il pensiero autoritario si affida sempre a qualcosa che trascenda la persona e la comunità di cui questa persona fa parte. Per continuare a comandare, meglio dire che le cose stanno così e cosà, piuttosto che ammettere che il farcele così e cosà dipende anche da noi.